Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa nostra giornata di giovedì 19 dicembre, benvenuti anche in Radio Zanardi che si avvicina al Natale, ma ancora più vicino a Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda, sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Haiti, peacekeepers in cambio di cibo, abusano di ragazze, le mettono incinte e poi le abbandonano. Venezuela, Bachelet, la miseria della gente continua. Stati Uniti, la Camera a favore dell'impeachment di Trump. Iraq, rilasciati 2700 manifestanti. Ancora Grecia, preoccupazione per i tentati suicidi fra minori in un campo profughi. Infine Hong Kong, cancellati i tradizionali fuochi di Capodanno a causa delle proteste. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dalla Bolivia. La procura ha spiccato un mandato di arresto per l'ex presidente Evo Morales con accuse di sedizione e terrorismo. L'ex leader si trova in Argentina per chiedere lo status di rifugiato. Venezuela, parlando al Consiglio dei diritti umani di Ginevra, Michelle Bachelet, il capo di questo ufficio, ha descritto la sofferenza in atto per i venezuelani più poveri. Oggi il loro salario minimo copre solo il 3,5% del paniere alimentare di base, aggiunto. Tra i fallimenti nel servizio pubblico è compresa l'assistenza sanitaria salvavita per i bambini. Presunte uccisioni extragiudiziali hanno avuto luogo da agosto. Il suo ufficio ha messo anche in luce l'eccessiva forza usata contro i manifestanti, detenzioni arbitrarie, maltrattamenti e torture. Le vittime di questi presunti omicidi sono principalmente giovani presi di mira da membri delle forze speciali di azione, FAES, nel contesto di operazioni di sicurezza condotte nei quartieri emarginati, affermato. Panama, almeno 12 persone sono morte, 13 altre sono rimaste ferite durante una sparatoria tra detenuti in una prigione vicino alla capitale. La polizia ha sequestrato diverse armi nel carcere di La Joyita. E andiamo ad Haiti. Le forze di pace delle Nazioni Unite hanno fatto figli con donne e ragazze ad Haiti prima di abbandonare le madri in condizioni di povertà nel paese caraibico colpito da catastrofi, secondo un nuovo studio. Studio pubblicato martedì su The Conversation ha esaminato l'impatto della lunga missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti, la MINUSTAH, che si è svolta dal 2004 al 2017. La missione aveva originariamente lo scopo di aiutare Haiti nella sua instabilità politica e criminalità organizzata, ma è stata estesa nel 2010 a seguito del grave terremoto e di nuovo dopo, con l'uragano Matthew nel 2016. I ricercatori dell'Università di Birmingham e della Quincy University Ontario hanno intervistato oltre 2500 haitiani per lo studio, di cui 265 soggetti, o circa il 10%, hanno raccontato storie di bambini generati da personale delle Nazioni Unite. Si legge che ci sono ragazze di 11 anni che sono state vittime di abusi sessuali, sono state messe incinte dalle forze di pace, lasciate nella miseria per crescere i figli da sole. I peacekeeper sono stati spesso rimpatriati dopo che le gravidanze sono diventate pubbliche e non hanno offerto sostegno alle madri una volta nati i bambini. La gente del posto ha etichettato i bambini generati dai peacekeeper come petite minusta. Stati Uniti, manifestazioni in tutto il paese a favore dell'impeachment del presidente Trump, migliaia di persone in piazza, è la terza volta che succede nella storia del paese. The house will be in order. With the bang of the gavel, the U.S. House of Representatives convened for a vote to impeach President Donald Trump on Wednesday. Intanto la Camera si è pronunciata a favore con 230 voti e 197 no, Donald Trump è ufficialmente in stato di accusa per Ukrainegate, entrambi gli articoli approvati, abuso di potere e ostruzione al Congresso. A gennaio si ripeterà la cosa al Senato, dove i repubblicani però sono la maggioranza. Trump ha replicato che la Camera vuole annullare il voto di milioni di americani e il risultato elettorale. Secondo un giudice americano, Edward Snowden deve dare i proventi del suo nuovo libro Permanent Record al governo federale perché non ha avuto l'approvazione dei contenuti sia dalla CIA che dall'NCA come richiesto dai suoi contratti di lavoro. Snowden è un ex contractor dell'intelligence, oggi fuggitivo in Russia, le cui rivelazioni sui programmi di sorveglianza degli Stati Uniti, alcuni altamente segreti, hanno scosso il paese nel 2013. Stai ascoltando Radio Bullets. Iraq, rilasciate 2700 persone prese in custodia per aver preso parte alle proteste che dilagano in tutto il paese da ottobre. Durante questi due mesi sono morti 496 iracheni e 17.000 sono rimasti feriti. Intanto, il giorno prima della scadenza per designare un nuovo primo ministro iracheno, i partiti politici hanno litigato ieri su tre candidati, tutti addetti ai lavori e tutti respinti dal movimento di protesta antigovernativo. Il presidente Salì ha tempo fino a mezzanotte di oggi per nominare un sostituto del premier uscente Adel Abdel Mahdi, che ha rassegnato le dimissioni dopo due mesi di manifestazioni senza precedenti che hanno scosso la capitale e la maggioranza sciita del sud. Mentre i nomi dei candidati sono trapelati nelle ultime settimane, giganteschi manifesti con i loro volti sbarrati in rosso sono comparsi rapidamente a Tahrir Square, a Baghdad, epicentro delle proteste dal 1 ottobre. Turchia, un altro giornalista è stato arrestato nella provincia orientale di Agri l'11 dicembre scorso con accuse di terrorismo. Aziz Oruç è in detenzione preprocessuale, accusato di far parte di un'organizzazione terroristica, ovvero il fuorilegge PKK curdo. E restiamo in Turchia perché il Ministero degli Interni ha rimosso dall'incarico anche tre sindaci del Partito Democratico Curdo, HDP, e uno del principale Partito Popolare Repubblicano dell'opposizione, CHP, per accuse di terrorismo. Libano, previsto per oggi l'avvio delle consultazioni parlamentari per affidare l'incarico di primo ministro. Il premier dimissionario Hariri, per le proteste che hanno scosso il paese, ha detto che non è più candidato alla presidenza del nuovo governo. Le consultazioni sono state rinviate già due volte negli ultimi 10 giorni. Israele colpisce un sito dove Hamas produrrebbe armi in risposta ad alcuni razzi lanciati da Gaza. Algeria, studenti, insegnanti e altri manifestanti si sono radunati a migliaia nella capitale dell'Algeria contro il neo eletto presidente, respingendo la sua offerta di dialogo con il movimento di protesta che dura mesi. Abdelmadjid Tebboune ha vinto con il 58,1% dei voti alle elezioni del 12 dicembre, nonostante la bassa affluenza, secondo i risultati ufficiali, e venerdì ha dichiarato di essere pronto a colloqui per costruire una nuova Algeria, ma i manifestanti contrari alle elezioni, che vedono come una stratagemma dell'establishment per consolidare il potere dopo che il presidente in difficoltà Abdelaziz Bouteflika si è dimesso proprio sotto la pressione popolare l'aprile scorso. Stai ascoltando Radio Bullets. Malta, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul caso della giornalista maltese uccisa, Daphne Caruana Galizia. 581 voti contro 83 astensioni. Il Parlamento afferma che fino a che il premier Muscat resterà in carica si rischia di compromettere le indagini sull'omicidio della giornalista. Circa 18.000 persone vivono in questo momento in un campo profughi sull'isola di Lesbo, costruito per ospitare 2.000 persone. La maggior parte dei migranti sono fuggiti da paesi dilaniati dalla guerra e oltre 7.000 dei suoi occupanti sono minori. La psicologa infantile Angela Morelli ha detto alla BBC che c'è un numero preoccupante di bambini che tentano di farsi del male o suicidarsi nel campo di immigrazione greco. Sentendo i bambini di 7-8 anni dire voglio morire è qualcosa che non avrei mai pensato di sentire. Ha spiegato che hanno cercato di creare uno spazio sicuro per i bambini rifugiati per aiutarli ad affrontare il loro trauma, ma l'ambiente del campo non consente ai bambini di riprendersi. In un bambino in età prescolare puoi vedere questi bambini che sbattono la testa contro il muro, racconta la psicologa. Ad esempio si strappano i capelli, e nell'età tra i 12 e i 17 anni vediamo bambini che iniziano a tagliarsi o a parlare del desiderio di morire. Il governo greco è in programma di trasferire 20.000 rifugiati da Lesbo e le isole vicine sulla terraferma. All'inizio del prossimo anno accelerare il processo per i richiedenti asilo. Il governo però chiede anche al resto d'Europa di contribuire a condividere la responsabilità di aiutare la crisi dei rifugiati. Albania, decine di giornalisti hanno protestato fuori dal Parlamento albanese mentre ieri i parlamentari discutevano per poi approvare un pacchetto antidiffamazione che autorizzerà pesanti multe per i media online e conferisce poteri extra ai regolatori dei media governativi. 15 giornalisti e organizzazioni della società civile hanno esortato il Parlamento a respingere la legislazione sostenuta dal governo, dicendo che avrebbe minacciato la libertà di espressione e la libertà dei media del paese, sarebbe contrario ai principi internazionali. Pakistan, una vendetta personale, così l'ex presidente Musharraf ha definito la condanna a morte per l'alto tradimento decisa 2 giorni fa contro di lui da un tribunale di Islamabad. Chi ha agito contro di me gode di alte posizioni, abusa del suo ufficio, ha aggiunto. The sound of gunfire and the sight and smell of tear gas hung in the air of New Delhi on Tuesday. Nonostante le ripetute invocazioni alla calma, non si placano le proteste anche in India, questa volta per l'approvazione di una legge che prevede la cittadinanza per indù, buddisti, cristiani e altre minoranze religiose che si trovano in India illegalmente, potendo dimostrare di essere perseguitati in paesi come il Bangladesh, il Pakistan e l'Afghanistan, ma non si applica ai musulmani. I critici affermano che l'ultimo sforzo del governo a guida nazionalista indù del presidente Narendra Modi per emarginare 200 milioni di musulmani indiani ed è una violazione della Costituzione del paese. Malesia, leader e rappresentanti senior di una 20 di nazioni musulmane si sono incontrate mercoledì nella capitale maltese per discutere di questioni che agitano il mondo musulmano a livello globale. In un vertice che l'Arabia Saudita ha deciso di snobbare, il Pakistan ha evitato di partecipare, secondo voci di corridoio su insistenza proprio dell'alleato saudita. Non è stata diffusa alcuna agenda per il vertice di Kuala Lumpur, che durerà fino a sabato, ma è probabile che si parlerà di Kashmir e Medio Oriente, dei conflitti in Siria e in Yemen, della difficile situazione della minoranza musulmana Rohingya in Myanmar e lo sdegno nei campi cinesi per i musulmani uiguri nello Xinjiang, e anche come contrastare la diffusione dell'islamofobia nel mondo. Tra i leader più espliciti c'è il premier malese e il presidente turco, presenti anche il presidente iraniano, l'emiro del Qatar, tutte persone con rapporti tesi con i sauditi. Hong Kong, i tradizionali fuochi d'artificio di Capodanno sono stati annullati, la polizia si oppone ad eventi su larga scala, temendo per l'ordine pubblico e la sicurezza. Gli organizzatori confermano che la sicurezza è la loro priorità e promettono uno spettacolo di luci potenziato e fuochi d'artificio lanciati dai grattacieli piuttosto che da una chiatta del porto. E concludiamo con l'Australia. Continuano ad infuriare gli incendi nella periferia di Sydney, mentre ogni giorno la temperatura diventa più calda. 2 giorni fa ha raggiunto i 40,9 gradi. Stato di emergenza per 7 giorni. E anche per oggi da parte nostra è tutto. Grazie di essere stati con noi e se volete sostenerci andate su radiobullets.com/sostienici. A domani con una nuova raffica di notizie. Proteggimi, proteggici. quando vogliamo, quando vogliamo. Solo un bastito prende la mia mano. A ciò che noi vogliamo, per ottenere tutto ciò che non vogliamo perdere. Quando giriamo su noi stessi, ora, quando restiamo in equilibrio, quando cerchiamo di proteggerci, proteggerci, ma perché non vogliamo perderci, proteggi, si proteggi noi, da ciò che noi vogliamo. Proteggici quando sogniamo, quando suoniamo, ma quando basta che tu prenda la mia mano, basta che tu prenda la mia mano, se basta che tu prenda la mia mano. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e benvenuti all'ultima puntata dell'anno del Pinsimonio radiofonico. Oggi, a pochi giorni dal 50° anniversario della strage di Piazza Fontana, avvenuta il 12 dicembre del 1969 a Milano, andiamo a dedicare la puntata ad alcune parole che sono state molto usate per parlare di quel periodo, quell'oscuro periodo della storia italiana, che oggi viene definito anni di piombo. Partiamo quindi con la locuzione strategia della tensione, che viene definita come una strategia eversiva basata principalmente su una serie preordinata e ben congegnata di atti terroristici volti a creare in Italia uno stato di tensione e una paura diffusa nella popolazione tali da far giustificare o addirittura auspicare svolte di tipo autoritario. L'espressione fu coniata dal settimanale inglese The Observer nel dicembre del 69 all'indomani della strage di Piazza Fontana, generalmente considerata l'avvio della strategia della tensione. La bomba di Piazza Fontana costituì la risposta di parte delle forze più reazionarie della società italiana, di gruppi neofascisti, ma probabilmente anche di settori deviati degli apparati di sicurezza dello Stato, non privi di complicità e legami internazionali, alla forte ondata di lotte sociali del 68-69 e all'avanzata anche elettorale del Partito Comunista Italiano. L'arma stragista fu usata ancora fino al 1980 con la strage di Bologna, ma non fu l'unica espressione della strategia della tensione, la quale passò anche attraverso l'organizzazione di strutture segrete, in alcuni casi paramilitari e comunque eversive, la progettazione e la minaccia di colpi di Stato e infine la sistematica infiltrazione nei movimenti di massa e nelle organizzazioni extraparlamentari, comprese quelle di sinistra, al fine di innalzare il livello dello scontro. E da qui andiamo alla parola stragismo, che è un derivato di strage. Stragismo nel linguaggio giornalistico è la tecnica del ricorso a stragi e attentati a scopo intimidatorio e destabilizzante da parte di gruppi terroristici o anche da parte di organi deviati dello Stato, specialmente in riferimento alla storia d'Italia tra gli anni 60 e 70 del Novecento. Altra parola molto legata a questo tipo di eventi è depistaggio, che viene definito come lo sviamento di un'indagine condotta dalla polizia o dal magistrato, o per estensione una manovra tattica mistificatoria diretta a disorientare. Ovviamente insieme al depistaggio va di pari passo la repressione, che viene definita come azione e operazione di reprimere, il fatto di venire o di essere represso e il modo stesso in cui vengono attuati, repressione di un istinto. Con uso e significato particolare, nel linguaggio politico è un'attività e azione violenta o intimidatoria attuata dal governo o dai centri di potere contro forze e movimenti rivoluzionari e progressisti, o comunque di opposizione, di protesta o di contestazione. Fare una politica di repressione. Nel linguaggio militare, un tiro di repressione è un'azione di fuoco violenta e concentrata sull'avversario che ha conquistato una posizione per impedirgli di mantenervisi e dilagare. Infine, in psicanalisi è un processo volontario di inibizione di pensieri, affetti o comportamenti che sono consciamente ritenuti inopportuni. L'ultimo termine non a caso di oggi è cagionare, che significa essere cagione di, produrre, provocare, procurare. Si dice comunemente di cose non piacevoli, come cagionare la morte. E con questo ricordiamo infine, con un po' di ilarità per l'evidente ridicolezza della locuzione e con altrettanto rammarico, il famoso malore attivo di Pino Pinelli, che entrò innocente in un ufficio al quarto piano della Questura di Milano il 12 dicembre e ne uscì dalla finestra il 15 dicembre del 1969 con entrambe le scarpe. E così si conclude la prima stagione di questo bellissimo esperimento che è stato il Pinzimonio Radiofonico. Ringrazio il nostro direttore Alessandro Canella, tutta la redazione di Radio Città Fujiko e tutti gli ascoltatori che hanno seguito il programma in questi mesi. Buon proseguimento sui 103.1. Buona giornata. Ascolta il Pinzimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinzimonio Radiofonico. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinzimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinzimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. for the secret, searching for the sound. But I could only hear the preacher and the baying of his hounds. Willow sky, well, I walk and wonder why. They say love your brother, but you will catch it when you try. E benvenuti dunque anche a Radio Zanardi nella pagina dei giornali della sua rassegna stampa che apre alle 9:30 minuti in punto di questo 19 dicembre, giovedì, apre con la prima del manifesto. Privati di tutto. Mercantili usati per respingere i migranti poi torturati nei campi libici. È la tecnica impiegata nel 2018 dall'Italia per aggirare il diritto internazionale. La complicità poi naturalmente di Tripoli viene segnalata dal manifesto e Di Maio scarica Salvini per il sequestro dei profughi sulla Grigoretti. Sì, all'autorizzazione a procedere, questo è il Tribunale dei Ministri, ma vediamo le furbizie da quattro soldi con gente che ci lascia la pelle. Alle Nazioni Unite il caso della nave Nivin che a novembre dell'anno scorso riportò illegalmente 93 migranti a Misurate. La tecnica era semplice: per aggirare il divieto di respingimento imposto dal diritto internazionale, l'Italia affidava ai mercantili il compito di intervenire in soccorso dei barconi carichi di migranti, ordinando poi di coordinarsi con la Guardia Costiera di Tripoli per riportarli in Libia, paese dal quale erano fuggiti. Un modo per, diciamo, privatizzare i respingimenti, svelato dal Forensic Oceanography, centro di ricerca del Goldsmith University di Londra, che è costato all'Italia una denuncia dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Una cosa che naturalmente la coscienza popolare è ben presente, che noi nei nostri microfoni abbiamo denunciato giorno per giorno, ma che adesso c'è anche questa conferma ad alto livello internazionale. Questo anche in occasione del viaggio del Di Maio, ministro degli esteri, in Libia. L'Italia in questo momento si trova davvero fuori dai giochi, perché viene stritolata da una parte dall'offensiva della Francia, della Russia, della Turchia, tutti assetati di petrolio libico. Allora dai libici la Farnesina tiene solo disponibilità. Il ministro, abbiamo chiesto di rivedere la questione dei campi. Loro hanno detto sì sì, adesso ci pensiamo. Vi immaginate voi l'efficacia di questa missione. E intanto, dice il manifesto, Turchia e Russia muovono le truppe. Macron si parla con Putin e Al-Sisi con Johnson, quindi tutta la diplomazia vorace intorno al grande banchetto della guerra libica. Dicevamo che della maggioranza della minoranza, ora Salvini in minoranza, quindi Di Maio scarica Salvini sia al processo per sequestro. Prima invece l'aveva salvato, perché era in maggioranza con lui. Questo è il concetto del diritto di Di Maio, che naturalmente fa imbestialire la destra. I grillini vogliono Salvini in galera, questo è libero. Di Maio decide di processarlo. Anche il giornale: Di Maio, processate Salvini. Il capo 5 Stelle va dalla sbarra per i migranti fermi in mare. E questo è il titolo che del giornale della destra, che è feroce, perché appunto Salvini adesso non ha più la copertura di una maggioranza parlamentare per le denunce che pesano sul suo capo. D'altra parte, la cronaca italiana si tinge anche di questo fatto che davvero lascia senza parole, sconcertati, all'ospedale di Sondrio. Insulti razzisti di una mamma nigeriana che piange la morte della figlioletta. Tua figlia di 5 mesi si sente male, non respira più, non capisce cosa le stia accadendo. La prendi tra le tue braccia e corri al pronto soccorso dell'ospedale più vicino a casa. Non sai perché sta male, ma capisci che la situazione è disperata. I medici la prendono in cura e dopo 90 minuti ne constatano il decesso, arresto cardiaco. Il cuore della piccola aveva smesso di battere già da un po' e non riprenderà più. Fin qui la tragedia. Tu sei una ragazza di 22 anni e fai quello che avrebbe fatto qualsiasi madre davanti al corpo senza vita di tua figlia di 5 mesi. Piangi, urla, non puoi darti una spiegazione a quanto è successo. Non può esserci pace davanti a uno strazio simile. Arrivi dalla Nigeria, però. La tua pelle è scura, molto scura, e per alcune delle persone in attesa al pronto soccorso questo è imperdonabile e non riescono a trattenere la propria disumanità. Tanto ne fai subito un altro, dice qualcuno. Altri parlano di riti tribali e satanismo. Qualcuno ti dà della scimmia, qualcun altro parla della tradizione loro. Tra virgolette, anche questo devi sopportare in quella corsia dell'ospedale di Sondrio. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori. E in questa prima pagina virtuale del nostro radiogiornale sui migranti prendiamo la notizia dal Carlino, il quale riporta appunto il caso della nave Gregoretti e Di Maio, il ministro Di Maio, scarica Salvini. Scoppia il caso della nave Gregoretti. A luglio i grillini salvarono l'ex alleato, adesso voteranno contro e oggi il caso passa alla giunta del Senato. Il braccio di ferro con l'Europa, la vicenda della nave Gregoretti che ha campeggiato tutte le pagine dei giornali nel mese di luglio, 131 migranti vorrebbe sbarcare all'isola di Lampedusa, ma l'allora titolare del Viminale Matteo Salvini nega il permesso. E adesso il giudizio di Di Maio è: il blocco non fu un'azione decisa dal governo ma solo dal ministro. E per quello che riguarda invece le notizie della Libia, andiamo a prendere il primo piano delle pagine della Stampa, dove c'è un articolo di Francesca Paci che parla appunto della strategia di Di Maio sulla Libia. Ci sono delle trattative insieme tra Mosca ed Ankara e il ministro degli esteri ipotizza un'azione congiunta, ma Erdogan è pronto a inviare le truppe. E addirittura si parla anche di un nuovo personaggio che dovrebbe arrivare a titolo della Farnesina a fare mediatore in questo conflitto che sembra sia sul nascere in Libia e sembra che ci sia anche un successore di Serraj, che è Nayed, che è vicino ad Haftar, il quale è vicino appunto al premier turco. E questi nomi che sono appunto di questo inviato speciale dell'Italia potrebbero essere o Staffan de Mistura, diplomatico delle Nazioni Unite, o Giampiero Massolo, presidente di Finmeccanica, o addirittura Franco Frattini, è stato due volte ministro degli esteri nel governo Berlusconi. Questo ce lo dice appunto pagina 10 della Stampa, con questo articolo che è di Francesca Sforza. Ancora andiamo a riprendere le pagine di Repubblica che parlano della Libia e c'è un'intervista a Di Maio, e dice con l'inviato di Repubblica Goffredo De Marchis e Vincenzo Nigro, dice: l'Italia non si schiera nella guerra, l'unica soluzione alla crisi libica è politica e non può prescindere dal dialogo con tutte le parti, non si tratta di equidistanza ma di realpolitik. Ancora prosegue la intervista dicendo: a Tripoli come in Siria si combatte per una procura, Turchia e Russia sono coinvolte, noi italiani abbiamo perso terreno ma ora serve un governo stabile per recuperarlo. E c'è stato appunto un blackout del governo italiano negli interventi in Libia per circa 8 mesi, e adesso che siamo sul punto di avere una nuova ricrudiscenza della guerra in Libia, il ministro Di Maio vorrebbe intervenire anche duramente. Ma un'altra notizia che riguarda l'estero arriva dall'America, e ampliamo il club degli impicciati, ovvero i presidenti che hanno subito un processo, un impeachment, come si chiama tecnicamente il processo a cui andrà incontro Donald Trump. È stato in questa notte è stato appunto votato dalla Camera per incriminazione del presidente. L'ira di Donald Trump contro la Pelosi, ha scritto una lunghissima lettera di 5 o 6 cartelle accusando appunto i democratici di essere dei fannulloni. Ce lo dice Il Resto del Carlino in pagina 13 con un articolo di Giampaolo Pioli. Ci sono attivisti democratici che protestano a favore dell'impeachment contro Donald Trump, e la speaker tira dritto, dice: ha messo in pericolo la nostra democrazia. Ricordiamo gli altri presidenti che erano stati sottoposti all'impeachment, tra Richard Nixon, Bill Clinton, e adesso abbiamo appunto Donald Trump. Questa è una delle notizie più diffuse nelle prime pagine dei giornali che stiamo prendendo in esame, e la notizia è comunque di carattere prettamente politico. A proposito di processi, torniamo al golpe boliviano, che i giornali non ne parlano perché, siccome lì i cattivi sono gli amanti dell'Occidente, i liberisti, bisogna stare un po' zitti, però ne parla invece Il Giornale, che invece sta con i cattivi in questo senso. Bolivia, sedizione e terrorismo, ordine d'arresto per Evo Morales, perché hanno una gran paura che Morales partecipi alle prossime elezioni e torni, come fatto sempre, a vincere, perché è quello più votato in Bolivia, mentre cioè in piedi una giunta dei perdenti alle elezioni, come cappeggiata dalla signora Agnes. Quindi manette per il compagno Evo, dice Il Giornale, compagno talmente ironico. La magistratura boliviana ha emesso un ordine di cattura per l'ex presidente Evo Morales, accusato di sedizione e terrorismo. Il testo firmato dai procuratori di La Paz, Jimmy Aymanza e Richard Villaca, ordina alle forze dell'ordine di arrestare e condurre Juan Evo Morales Ayma nella sede del Ministero Pubblico. Oltre che nei confronti di Morales, fuggiti in esilio in Argentina, vengono messi mandati d'arresto anche nei confronti di Faustino Yucra Yarvi, importante esponente per Tomás dell'ex presidente, e anche la Janine Dinanza, la golpista che porta avanti queste manette per gli oppositori politici. Nessuna novità in America Latina dai tempi degli americani con la K, sono tornati, come perché c'è Trump e poi anche la Casa Bianca. E invece in Europa, proteste in 160 città polacche contro la riforma della giustizia. La nuova legge vieta ai giudici di applicare il diritto dell'Unione Europea. Questo è un altro paese aderente all'Unione Europea che si vanta di essere un'unione democratica. In Ucraina, scontri per le terre nere. Il paese indebitato deve fare cassa, allora i inflessibili burocrati del Fondo Monetario Internazionale, racconta il manifesto, sono dimostrati inflessibili per l'appunto col governo ucraino. La legge che consente l'acquisto dei migliori latifondi, le cosiddette terre nere, deve diventare operante subito, cioè espropriare i contadini per dare ai latifondisti, come nei racconti di Tex Willer. C'è sempre così, no? Il cattivo latifondista, solo che in Ucraina manca Tex, che libera tutti. Questo è le privatizzazioni e il mercato liberista. Invece passiamo un po' al calcio, perché andiamo, la coreografia è indipendentista, siamo in Catalogna. Barca Real, la piattaforma Tsunami Democratica, si prende gli asfalti del Camp Nou, lo stadio, ma senza incidenti. Quindi c'è una grande manifestazione di indipendentismo spagnolo, ma senza incidenti temuti, con tanto di massiccio spiegamento delle forze di polizia. A Vienna, scandalo alla scuola di ballo di Vienna, bimbi costretti a fumare per dimagrire, perché bisogna essere delle silhouette. In Austria, l'opera è una delle scuole più antiche e famose al mondo. Gli studenti registrati in base al peso e alla taglia dei vestiti. Questo è quello che ci racconta Il Giornale. Mentre vengo alla signora Merkel in Germania, altro che Natale, la Merkel alla guerra del gas. Sanzioni in arrivo. Gli USA osteggiano completamente il Nord Stream 2 che parte dalla Russia. Quindi c'è questa contesa che ci porta sul terreno ambientale. E allora andiamo a Guterres, il segretario generale dell'ONU, che dice: la terra brucia, non si può restare a guardare. È per quello che bisogna girarsi dall'altra parte, per non guardare, questo è il meccanismo. Il segretario generale dell'ONU in Italia interviene al Senato e rilancia allarme clima. Dalla delusione per il fallimento della COP25 ai migranti, l'Italia e Grecia lasciate sole, questo racconta il manifesto sull'intervento di Guterres. Allora entriamo nella pagina dell'ambiente e come sempre guardiamo l'extraterrestre, il piatto serra. Quindi parliamo dei cenoni di Natale, Capodanno, insomma sarà un'orgia, poi si mette a dieta dopo le ferie. Cenone natalizio con un occhio al clima, però. Un ristorante che usa comuni prodotti industriali emette infatti 296 tonnellate di CO2 all'anno, pari all'inquinamento di un'auto che percorre 822.000 km. L'alternativa si chiama Alleanza dei Cuochi. 1.100 chef in 25 paesi che si propongono di abbattere le emissioni con menù benedetti da Slow Food. Il capofila del ristorante parigino Le Resistant, dove le emissioni sono 5 volte di meno, grazie alle filiere controllate dalla riduzione degli sprechi. Quindi questo è un elemento di rilevante. E allora andiamo al Corriere Bologna, che all'interno, a pagina 9, ci parla: il cibo è la nostra base culturale, quindi è sempre cosa mangiamo. Ecco cosa racconteremo all'UNESCO. Se Gray lancia la candidatura, senza la sua gastronomia Bologna non sarebbe Bologna. Quindi Bologna senza la sua cultura gastronomica non sarebbe Bologna, sarebbe una città più chiusa, più povera, più triste, meno accogliente, dove per accoglienza si intende integrazione. Insomma, Bologna è diventato un porto aperto anche grazie ai piatti con cui nella storia ha imbandito le sue tavole. Sarà questo il cuore del dossier che verrà presentato dall'UNESCO per candidare la tradizione bolognese gastronomica a patrimonio dell'umanità. Oddio, per fare il recupero non bollire per delle ore e ore, non so quanto ci guadagni la CO2, ma insomma questo è. Nel frattempo, sempre parlando di Bologna, sempre parlando di ambiente, People Mover, parliando della mobilità sostenibile, stop al caro ticket. Perché la regione chiede che parta prima delle elezioni. Il comune nicchi, anche perché c'è la proposta di Marconi Express, i privati, di portare il biglietto a 9,50 euro, quindi in due persone conviene prendere il taxi. Questa è la convenienza di People Mover. Allora il comune boccia questa proposta. Stop il maxi ticket da 9,50 per il People Mover, proposto lunedì da Marconi Express, è già a partire dal prossimo luglio. Resta però un piccolo rincaro al biglietto della monorotaia al aeroporto, che già costava 6 euro, quindi costava già un occhio della testa, che tutti sperano sia operativa entro al 100% oltre il voto del 26 gennaio, tutti, quelli del centro-sinistra ovviamente. Il ticket costerà 8,70 euro contro gli 8,50 per cui sarà parlato negli ultimi mesi. Almeno non ci sono istruttorie, fa sapere il comune, non vengono prese in considerazione alte tariffe, ci mancherebbe altro. Quindi è un aggravio per i poveri, magari facciamo questa tariffa agevolata. E passiamo invece al Fatto Quotidiano, sempre su questioni di infrastrutture e varie, perché troviamo in nona pagina: gallerie insicure, siamo sempre nella mobilità, questa volta non sostenibile ma insostenibile. Gallerie insicure, altro fronte dei PM contro autostrade. Dopo le barriere fuori norma dei viadotti, i PM di Avellino acquisiscono i documenti con i rilievi critici del Ministero. Questo è ambiente, grandi opere, dove mettiamo i soldi? Mettiamo i soldi nella Val di Susa o per fare le autostrade più sicure, i treni più sicuri, le coste più sicure? Questo in Val di Susa. L'allarme, ispettore del MIT, legge violate, niente prevenzione, incendi, tanti incidenti, così racconta il Fatto Quotidiano dell'intervento di Vincenzo Iurillo. Passiamo a questo punto ad altre notizie, ma dal Sole 24 Ore. Sì, grazie Alfredo, ma hai citato l'UNESCO, patrimonio dell'umanità, e Bologna sotto la lente di ingrandimento per i tortellini, ma anche per i portici, che sono un patrimonio dell'umanità unica nel suo genere per quello che è Bologna. Peccato che a livello di inquinamento siano delle camere a gas, perché viene trattenuta la CO2 e tutti i componenti inquinanti della circolazione, e quindi da un lato belli ma dall'altro molto pericolosi. Il Sole 24 Ore, come diceva appunto Alfredo, ha una fotonotizia che riguarda il clima e parla del caldo record in Australia. Caldo e incendi mettono in ginocchio l'Australia, le temperature non scendono. Martedì è stato il giorno più caldo a livello nazionale da quando l'ufficio meteorologico raccoglie i dati, sono 41 gradi contro i 40,3 dell'anno precedente. E in una cartina in cui si vede l'inquinamento, l'Australia ha il colore del massimo e riguarda appunto, la causa è questi ripetutissimi incendi in quelli che sono in quella che è considerata l'estate australe in questo momento. Un'altra notizia sull'ambiente la prendiamo dall'allegato di Repubblica. Le scienze, in uscita oggi, allegato gratuitamente insieme al giornale di Repubblica appunto, c'è una bella intervista a Marco Tedesco, professore della Columbia University, ricercatore presso il Goddard Institute e responsabile esperto, è uno dei massimi esperti del cambiamento climatico e appunto ha una rubrica su questo giornale appena citato. E dice: è importante lo sviluppo di nuove tecnologie che siano in grado di imprigionare l'anidride carbonica, quindi prima l'abbiamo rilasciata nell'ambiente, adesso dobbiamo inventarci delle strategie per riassorbirla attraverso dei macchinari. E l'altro aspetto positivo su cui bisogna agire è che attraverso questi enormi computer e questa accelerazione ed elaborazione dei dati, soprattutto a livello meteorologico, abbiamo la possibilità di accedere ad analisi sempre più rapide e approfondite di quelli che sono i modelli dello sviluppo futuro del clima, e quindi siamo in grado di prevedere sempre meglio quello che sarà il peggioramento e l'aumento della temperatura appunto nel mondo. Bisogna però che trasformiamo tutte queste cose innovative in soluzioni pratiche e soluzioni che riguardino il miglioramento dell'ambiente in cui viviamo. Ma siccome la Terra sta andando a balillo, allora eccolo qua che Occhi Italiani nello spazio caccia i pianeti in cui vivere. Ragazzoni, creatore di telescopi in orbita da ieri sul satellite europeo, e dice: per la prima volta potremo misurare i corpi celesti per poi salire alle loro caratteristiche. Speriamo che in questi pianeti in cui vivere non siano già abitati, altrimenti o li massacriamo, li facciamo schiavi o facciamo le guerre, insomma questo è. Quindi speriamo che siano niente vuoti. Ma a Parigi invece, più verde meno auto, ecco come saranno i nuovi Champs-Élysées. Parigi, il progetto per riqualificare l'aria arteria, simbolo della città. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin. Au café, y a la Seine, à n'importe quelle heure, et la Seine visiteur qui la regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y'en a pas qu'à Paris, y'en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y'a pas partout Paris. Là l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. A Parigi, 9:53 minuti primi, Yves Montand con questa canzone che parla di Parigi, che mi lascia spazio per restare in argomento e parlare di un articolo di fondo di della Stampa di Massimiliano Panarari dello sciopero a Parigi che diventa insurrezione. Stavolta non è Black Bloc ma Blackout. Gli scioperi del settore pubblico in Francia, arrivati alla seconda settimana di durata, sono caratterizzati da un'azione durissima di protesta, già dispiegatasi nelle manifestazioni dei gialli allora e ora in questo senso. Il disegno di riforma previdenziale del governo, che vuole modificare i favorevolissimi e anacronistici regimi speciali di cui godono alcuni gruppi professionali come i ferrovieri, e uniformare un quadro normativo frastagliato, ha scatenato una reazione ipermuscolare che si rovescia assai pesantemente sui cittadini incolpevoli. Questo era appunto il passaggio cruciale di questo articolo di fondo della Stampa di Massimiliano Panarari. E allora Andrea mi ha introdotto al lavoro, che direi di aprire con le perequazioni. Il 31 è la pagina del Corriere, in fondo perché l'occhio sfugga ai più. La domanda è questa: quanto guadagnano i dirigenti? La risposta è 183 volte più dei dipendenti. Si chiama lotta di classe. Il rapporto Mediobanca, remunerazioni più basse e per le poche donne al vertice, anche questo elemento che viene confermato. L'Italia è assolutamente arretrata anche su questo versante. E allora entriamo decisivamente nel mondo del lavoro. Dunque, Frank, l'algoritmo antisciopero, CGL porta in tribunale Deliveroo, è il manifesto. La prima causa del sindacato contro la multinazionale per condotta discriminatoria. L'udienza è fissata già il 2 di gennaio, ricostruzione di Corsa Italia, l'azienda reagisce. Dunque, la CGL fa causa Deliveroo per discriminazione collettiva per il sindacato e la multinazionale del food delivery, usa l'algoritmo Frank per assegnare le consegne e penalizza perché persone che hanno malattie, esigenze di cura e che esercita diritto di sciopero. Quindi il vecchio caporale diventa un algoritmo. Questo è il quanto. Sempre dalla pagina poi del manifesto andiamo ad altri temi che riguardano per esempio il mondo della finanza. La Popolare di Bari e le piccole Lehman Brothers che prestano soldi senza averli. Luigi Pandolfi è la pagina della Comunità Manifesto che racconta di queste banche che danno fuori dei crediti senza nessuna garanzia e poi dopo sperperano i soldi dei correntisti, in particolare dei lavoratori, questo li buttano nel cesso. Quindi questo è, e allora le furbate di Visco vengono raccontate anche dal Fatto Quotidiano, quello che dovrebbero controllare, quello che fanno le banche. Banca Italia regola la carta per salvare l'amico De Bustis, dal 2015 manca il decreto sull'onorabilità dei banchieri e la vigilanza fa come le pare, figli e figliastri tra chi guida gli istituti. Quindi c'è una lotta di potere fatta a colpi di sorveglianza o meno. Si parla moltissimo anche dell'incontro del nuovo quarto polo automobilistico FCA PSA, luce ed ombra della fusione. Naturalmente l'Italia non esiste più in questa vicenda, questo è anche qualcuno dice ma è finita la Fiat da un pezzo, quindi parliamo di un gigante multinazionale, firmato l'accordo di aggregazione che vedrà vita al quarto costruttore mondiale di auto, tra dividendi straordinari e gli azionisti, vantaggi per i francesi e rappresentanti dei lavoratori in CDA. Questo, ma la Patrizia De Rubertis intervista la Giuseppe Berto, uno dei più noti storici dell'economia, insegna storia dell'industria alla Bocconi, e ora che si taglia e si svegli la matrice sarà francese, ma i posti a rischio sono i nostri. Sì, questa vicenda è particolarmente presente sui giornali, e appunto la cosa che sembrerebbe positiva che è che nel CDA ci sono anche i dipendenti, ce lo riporta appunto questo articolo di pagina 6 di Repubblica, dove si parla appunto della fusione in 12-15 mesi, un gigante da 170 miliardi, John Elkann che stringe la mano a Carlos Tavares di Peugeot, e appunto questa cosa dei dipendenti potrebbe essere solo solo uno zuccherino, un contentino. E mentre... Quindi sono coinvolti i responsabili dei licenziamenti. Infatti, c'è la responsabilità solidale dei dipendenti. E mentre Alfredo citava che finalmente la CGIL di Bologna si è schierata a favore dei riders, a pagina 25, sempre di Repubblica, un articolo di Rosaria Amato ci fa presente che per Conad O'Shan ci sono 3.100 esuberi e bisogna che si muova il governo, così chiede l'amministratore delegato pugliese. Bisogna arrivare a zero, ma è impossibile, vogliamo andarci vicino. E ricordiamo che il 23 dicembre c'è uno sciopero appunto di questi lavoratori. La società cooperativa chiede misure per grandi centri commerciali e i sindacati in rivolta dicono l'azienda si impegni a riassumere tutti quanti i dipendenti. Un'altra notizia la prendiamo dal Sole 24 Ore, sempre sul mondo del lavoro e l'Italia, e c'è appunto rischia un'altra indagine a livello europeo. C'è in prima pagina la fotonotizia è la danese Margaret Vestager, titolare della concorrenza e del digitale, che sta intervenendo appunto sul problema della concorrenza, e c'è un rischio di indagine sull'Alitalia per gli aiuti di Stato. Che cosa sta succedendo? Lo Stato ha varato altri 400 milioni di euro di aiuti per questa società e un nuovo commissario generale in attesa di riuscire a risolvere il caso. Comunque questa cosa della Vestager preoccupa abbondantemente anche il resto dell'Italia. E ancora sul mondo del lavoro, l'Ilva e l'Altoforno e i giudici che sono intervenuti, e ore decisive per sbloccare il negoziato, in campo arriva anche Conte e il patron di Mittal. Il 30 dicembre c'è l'udienza del riesame sull'Altoforno e slitta a gennaio il decreto legge del governo su Taranto, con il negoziato sull'ex Ilva in stallo e la soluzione per far ripartire il confronto nelle mani del premier Giuseppe Conte e del patron della multinazionale, e per l'appunto franco-indiana, la Scimi Mittal, che si chiama così come lui. Se i contatti avranno esito positivo, il governo è disposto a mettere sul piatto nel complesso 3 miliardi tra vecchie e nuove risorse. Tra questi, dice, circa 1 miliardo sarebbero necessari per l'ingresso dell'equity di Investico Italy, con una partecipazione che, stando alle novità delle ultimissime ore, oscillerebbe tra il 30 e il 40%. E allora oggi il Fatto Quotidiano riprende l'intervista che Loce, ieri seguitissimo in quel di Bologna, anche noi abbiamo mandato un pezzo del suo intervento, e torna sul lavoro, presentando il suo questo film, Sorry We Miss You, competitivi tra poveri e la guerra dei precari. Oggi non sono più padroni a flagellare gli operai, è lo strumento della competizione, chiave del capitalismo, a governare. Nel film abbiamo tentato di mostrare come si riduce un freelance precario nel mondo delle consegne a domicilio per conto del mercato online. La competizione regna ad ogni livello nella scala professionale dei manager e dei magazzinieri, permettendo al boss di Amazon di diventare l'uomo più ricco del pianeta. Quale potrebbe essere via d'uscita? Beh, come sempre, che Loce è molto chiaro e semplice. I sindacati devono tornare ai metodi originari, pensando più a organizzare i lavoratori che non ad arredare uffici costosi. E inoltre gli intellettuali devono far cercare di non perdere la loro voce, perché anche un sussurro in un coro multiforno può avere un peso. E allora, se parliamo di precari, andiamo ai facchini che lavorano in appalto per IKEA, che non vengono pagate, da cui non vengono pagate le prime integrazioni salariali in caso di malattia o di infortunio. Quindi vedete, non è solo l'algoritmo di qui sopra. Dei rider. Per questo motivo USB promuove per venerdì prossimo, 20 dicembre, una giornata di informazione intitolata Smascheriamo IKEA. C'è chi va in pullman a vedere IKEA, bisogna guardare anche il retrobottega di IKEA. Di IKEA abbiamo parlato con Federico Fornasari, proprio di USB Bologna, e sentiamo le sue parole. È una giornata nazionale, visto che abbiamo deciso di solidarizzare, di far sentire forte la presenza della solidarietà verso i lavoratori, in particolare della cooperativa San Martino, che in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane si sono più volte hanno avuto modo di mobilitarsi rispetto ad alcune questioni che riguardano soprattutto il fatto stesso dell'appalto di manodopera, che è una modalità sempre più utilizzata nel settore della logistica, è all'ordine del giorno, ma poi anche anche in moltissimi altri settori del lavoro, l'intermediazione di manodopera tramite cooperative, agenzie, è qualcosa che è un elemento che smantella la base dei diritti dei lavoratori, perché chiaramente appunto la committenza non fa rispettare alle cooperative appaltanti questi diritti, e queste, diciamo, giocano partite al ribasso sulle spalle dei lavoratori. In questo particolare caso si tratta soprattutto di quello che concerne la malattia, l'infortunio, che chiaramente, se pensiamo a un lavoro usurante e pesante come il facchinaggio e la logistica, sono all'ordine del giorno. È un lavoro che non si può svolgere in condizioni di salute precaria, e invece questi lavoratori, non avendo appunto, non essendogli riconosciuti al 100% i diritti rispetto a malattia e infortunio, si ritrovano spesso e volentieri a dover lavorare per forza anche se non stanno bene di salute. E poi c'è anche una questione legata a un tema che, diciamo, è molto sentito negli ultimi tempi, e l'abbiamo esplicitato anche nel volantino che venerdì andremo a distribuire alle porte dello stabilimento IKEA. IKEA è un'azienda che, diciamo, racconta una facciata di quello che potremmo chiamare greenwashing, quindi appunto di essere un'azienda vicina alla tutela dell'ambiente, eccetera, ma appunto quello che ci chiediamo è come si può pensare di risolvere la problematica ambientale semplicemente pensando a qualcosa che non sta qui, non sta sul territorio, e invece non alla salute dei propri dipendenti. Quindi diciamo che questo, per quanto a noi anzi sta a cuore la tutela dell'ambiente, e in tante occasioni abbiamo detto che questa può essere portata avanti di pari passo alla tutela della salute dei lavoratori, ed è quello che deve fare anche IKEA. Siamo molto contenti se si salvano boschi e foreste, ma bisogna salvare anche le vite umane dei lavoratori che stanno in loco, anche perché chiaramente se no risulta un'operazione anche ipocrita, visto che i lavoratori hanno, come dicevo prima, condizioni precarie dentro il posto di lavoro, e in particolare coloro che sono in appalto, con una divisione che ci fa pensare appunto a lavoratori di serie A e di serie B, ma queste divisioni noi non le vorremmo più conoscere e riconoscere sui posti di lavoro. In sostanza, questa cooperativa che gestisce in appalto i servizi per IKEA non integra economicamente quanto erogato da INPS o INAIL in caso di malattia o infortunio. La domanda che ti volevo fare è: ma IKEA, che è il committente, non ha delle responsabilità in merito? Ecco, appunto, è esattamente un tema su cui andremo a battere, e come dicevo prima, IKEA manca in questo momento rispetto alle proprie responsabilità, perché appunto la committenza ha delle responsabilità rispetto alle ditte appaltanti, e quindi in questo caso noi l'abbiamo spesso detto, non basta che il sindacato si metta in moto, in questo caso bisogna inchiodare l'azienda alle proprie responsabilità e appunto a impedire che questo meccanismo continui ad andare avanti, perché come dicevi tu IKEA ha delle responsabilità e bisogna che le faccia pesare nel pratico, appunto non soltanto con qualche parola, comunque ne abbiamo sentite poche a favore dei lavoratori, e non soltanto sviando il discorso su altri elementi. Quindi in questo caso il nostro puntare con un'azione nazionale sugli stabilimenti IKEA vuol dire proprio questo: il primo responsabile dei lavoratori tutti, anche coloro che sono in appalto, è la ditta che appunto appalta. Come si svolgerà la giornata di venerdì? In una serie di città d'Italia saremo alle porte dei magazzini, in questi giorni fra l'altro in cui c'è un grande afflusso anche visto il mercato natalizio, distribuiremo volantini, faremo informativa, diciamo sarà un'azione mirata soprattutto a parlare con la cittadinanza, a parlare con la gente, a interloquire, quindi noi non ci siamo tirati indietro quando c'era da fare blocchi, scioperi, eccetera, eccetera, ma in questo caso sarà un'azione molto più comunicativa, perché appunto in questo caso ci vogliamo rivolgere anche a chi magari ignaro di tutto questo va a fare le proprie compere, le proprie spese all'IKEA, ma magari se sapesse che cosa IKEA fa ai lavoratori e soprattutto qual è il prezzo che i lavoratori devono pagare per il basso prezzo che la clientela paga per le merci, forse si farebbero due pensieri in più. Quindi parleremo e discuteremo e daremo volantini a utenti e magari anche a lavoratori IKEA. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Pagina del Palazzo, dice il Corriere della Sera, c'è il referendum, fermato il taglio dei parlamentari. Lannuti rinuncia alla commissione delle banche, Di Maio diremo sì al processo per Salvini, come abbiamo già visto. Ma quello che è più rilevante nella giornata è che si raggiunge questo numero di firme per avere il referendum sul taglio dei parlamentari, il che naturalmente da una parte rassicura molti parlamentari che possono essere rieletti perché c'è più possibilità e quindi potrebbe in qualche modo favorire la crisi anticipata del mandato legislativo, ma d'altra parte però chiaramente col referendum si allunga, al contrario, i tempi della durata del referendum lo stesso, del mandato legislativo stesso. Quindi c'è, gioisce la Lega, c'è uno spiraglio per il suo quesito, legge elettorale, arriva il referendum, la tentazione del voto e il rebus istituzionale, chiaramente legata al taglio di parlamentari c'è anche a seguire la riforma elettorale. Ci sono le firme per la consultazione sul taglio di parlamentari, si apre una finestra per le elezioni anticipate con i vecchi numeri, il giudizio degli elettori sulla riforma rischia di delegittimare le nuove Camere. Questo è il manifesto, prima il Corriere, poi il manifesto. Il Fatto Quotidiano parla del 64 salva poltrone, la Lega li perdona, referendum contro il taglio degli eletti. Naturalmente ci sono anche gli ex 5 Stelle che firmano questa cosa dopo aver detto che il 5 Stelle ha tradito il mandato. Questo francamente che siamo alla serie a chi la fa peggio, ma non è questo che ci meraviglia. Andiamo invece a chi è sempre contrario, a Mattarellum, Bersani, sono pronto a qualsiasi inciuccio pur di non votare il Rosatellum. Bersani, deputati di articolo 1 e l'ipotesi delle urne anticipate, i due Matteo sono spregiudicati, noi non possiamo arrivare nudi alla meta. Ha dimostrato il premier Conte di avere il fisico per buttarsi quando c'è un problema, ora che deve dire al paese che la spina del governo c'è, cioè che la spina del governo ce l'ha in mano lui. Tutti si possono chiedono cosa fanno le sardine, invece dovremmo chiederci che facciamo noi, e noi siamo fermi sulle gambe da mesi. Direi che questa è la cosa più saggia di tutto l'articolo di cui sto leggendo. Il Corriere a pagina 9 arriva invece con un altro protagonista di queste firme, non è Bersani che non ha firmato, ma invece è Ngue Jacobbe del PD, l'ultimo sottoscrittore, il mio okay decisivo, non si risparmia così, quindi è un prendi risparmio. La politica in Italia, la democrazia è un prendi risparmio, questo è. Naturalmente poi spendiamo l'ira di Dio in armi, in F-35, in Val di Susa, però sulle politiche bisogna risparmiare. Anche perché si poteva tranquillamente non dimezzare ma trimezzare il salario, lo stipendio o l'onorario per essere più precisi dei parlamentari e aumentare la presenza di parlamentari in Parlamento per aumentare anche la rappresentatività popolare e diminuire il potere di ricatto delle segreterie, perché avendo meno da eleggere è chiaro che hanno, che contengono tutti, come diceva Nixon, per le palle. Questo è quello che si evince dal Corriere della Sera. Sì, Alfredo, in tema di governo, partiti, manovra, il giornale principe è esattamente Il Resto del Carlino, che si occupa abbondantemente con varie sfumature di tutto ciò, e parte a pagina 2 con la TV digitale e il decoder. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede un bonus di 50 euro che da ieri permette di adeguare il proprio vecchio televisore o comprarne uno in grado di sopportare il nuovo sistema di trasmissione, ma potranno usufruire solo le famiglie con reddito fino a 20.000 euro. La rivoluzione del nuovo segnale sarà completata entro il 31 dicembre 2022, ma c'è un sistema per capire se avete il televisore vecchio o è in grado di supportare questa nuova tecnologia. Basta sintonizzarsi dal canale 500 in avanti. Ancora sempre dal Carlino, prendiamo che per la sanità e la carenza di medici probabilmente ci sarà medici che lavoreranno fino a 70 anni. Sì, agli specializzandi, in corsia firmato l'accordo fra governo e regioni, previsti investimenti per 13 miliardi in 3 anni, il ministro, ora il sistema sanitario è più forte. Secondo me no, l'ira dei sindacati, i dottori in famiglia sono comunque dimenticati. Questo è appunto l'ultimo accordo che rischiava di saltare per trovare una pezza per il settore sanitario. E poi c'è il problema di cui si è già intervenuto Alfredo, di quello del stop al taglio dei parlamentari, perché c'è un probabile referendum che sta per partire e come la storia ci ha insegnato già in altri casi, il referendum potrebbe anche rischiare di far saltare il governo. Comunque si riparte con questa altalena di discorsi che ci porta a un articolo di fondo di Marcello Sorge, che ci dice che le 64 firme dei senatori favorevoli al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari approvato definitivamente a ottobre costituiscono l'ultima occasione di tornare al voto per eleggere un Parlamento alla vecchia maniera con 945 membri, di cui 630 deputati e 315 senatori, come avverrebbe dopo l'entrata in vigore della riforma che prevede appunto il taglio dei parlamentari. La legge che regola il referendum prevede infatti che questo genere di consultazioni si tengano tra il 15 aprile e il 15 giugno, a meno che il Parlamento non venga sciolto prima. In questo caso si dà la precedenza alle elezioni politiche e si rinvia il referendum di un anno o di sei mesi. In passato è accaduto con l'incombenza di un voto referendario che abbia creato occasione per lo scioglimento nel 72 appunto col referendum sul divorzio, e nel 74 nel 74 con il referendum del divorzio, nel 79 con l'aborto e nell'87 per la giustizia e il nucleare. E quindi questo era il commento che abbiamo preso appunto dalle pagine della stampa di Marcello Sorge. Sempre per quanto riguarda il giro della politica, abbiamo Roma ladrone. Palermo, patteggi re dell'eolico, Vito Nicastri, corruzione col consulente leghista Paolo Arata, quindi la Lega c'è dentro un'altra volta, già condannato per mafia, tangenti regione, 2 anni e 10 mesi. Forte Italia è preoccupato perché, leggo dal giornale, Carfagna ruola Martino per la sua cosiddetta voce libera, che è un nuovo movimento, corteggia pure Cottarelli. Domani il varo della nuova associazione, azzurri irritati, lavori per Forza Italia. Mentre Grillo, vado al Corriere, Sferti 5 Stelle blinda il capo, nessuno come lui, per poi loda Casaleggio, il paragone, cena con Dibba e fa il dito meglio all'ipotesi di espulsione. Questo è della serie sempre Veri dei Gentlemen. E dalla parte poi abbiamo anche altri temi che vengono ricordati, appunto questa indagine sui traghetti, quelli che collegano la Sicilia al continente, e il manifesto si torna sopra questa indagine con tanto di arrestati, il presidente della regione eccetera eccetera. Questo è nulla di nuovo sotto al sole, ma non per questo è meno deprimente. Ancora oggi leggiamo invece Catania, questo è un flash di questa mattina, nell'ambito dell'inchiesta sul crack dell'istituto di credito Banca Base, la Guardia di Finanza di Catania ha posto agli arresti domiciliari l'ex presidente del CDA Piero Buttino, 63 anni, e il direttore generale Gaetano Sannolo, 47. Avviso di conclusione, indagini per altri 18 indagati, bancarotta fraudolenta, falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e oggettaggio. Le accuse, costituiti gli illeciti del vertice della banca, consistenti operazioni finanziarie, aiuti economici, antieconomici, dissipative del patrimonio. Questo è quello che si legge. Ma ancora veniamo ai 5 Stelle, è arrivato Grillo Sferti 5 Stelle blinda il capo, nessuno come lui, poi loda Casaleggio, paragone, cena con Dibba, appunto, e fa questo dito meglio, come dicevamo prima, già letto. Questo è il quadro che arriva dal mondo della politica. Ma mi sposto invece da un flash di questa mattina che è tragico, anche se quasi, come ho raccontato, sembra quasi una curiosità. Camionista lo aiuta, poi lo investe. Era finito contro un albero con la propria automobile. Un camionista che aveva assistito alla scena si è fermato per soccorrerlo. Una volta assicuratosi che la vittima dell'incidente stava bene, l'autista del camion è ripartito non accorgendosi che la persona soccorsa era troppo vicina al suo mezzo e l'ha investita, causandone la morte. Questo è quando si dice il destino ti chiama. Invece il destino c'entra meno, evidentemente, in questo, in altra vicenda. Travolge madre di 5 figli e fugge. Il loro appello sul web e poi l'arresto. Livorno, il messaggio: aiutateci a trovarlo, fermato il pirata, è un 26enne. Ci porta, allora prendo la sicurezza stradale, perché è un tema che oggi il Corriere dedica parecchio spazio. Allora, bimbi in auto, 6 su 10 senza seggiolino, è questo, vabbè. Ma vediamo che altri dati sono forse più inquietanti. L'Istituto Superiore di Sanità: al nord l'82% mette le cinture, al sud il 36%. Si potrebbero evitare 327 morti l'anno. Moto: migliora l'uso del casco. Questi sono i dati che arrivano dall'Istituto Superiore della Sanità. Lunga e diritta correva la strada, auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino lui sorrideva, vicino lui sorrideva. Forte la mano, teneva il volante, forte il motore cantava, non lo sapeva che c'era la morte quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava. Non lo sapeva che c'era la morte, quando si è giovani è strano poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano, venga e ci prenda per mano. Non lo sapevi ma hai pensato, quando la strada è impazzita, quando la macchina è uscita di là e sopra un'altra è finita, e sopra un'altra è finita. Non lo sapevi, ma cos'hai sentito quando tuo schianto ti ha ucciso, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita, quando la vita è fuggita. Dopo il silenzio soltanto regnato tra le lamiere contorte, sull'autostrada cercavi la vita, ma ti ha incontrato la morte, ma ti ha incontrato la morte. Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare e soffrire, spendere tutti i tuoi giorni passati, se presto sei dovuta partire, se presto sei dovuta partire. Voglio però ricordarti come pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi, e che come allora sorridi. Canzone per un amico di Guccini, potrà mettere su anche la locomotiva, perché parliamo di anarchici, perché evidentemente ci sono dei, così, degli evergreen della retorica di palazzo che non voglio mai. Uno di questi, lo racconta Massimo Novelli dal Fatto Quotidiano, gli anarchici sono l'eterno capro espiatorio. Succede che ieri il GR1 Rai delle 8 del mattino alle 18 dicembre, durante il servizio sugli arresti di alcuni militanti del centro sociale scordonese Scatasuna per ammonizione Notav, è stato dato spazio al commento di Alfredo Mantici, ex capo del Dipartimento Analisi del SISDE. Sentiamo cosa ha detto. Secondo lui, come ha riportato il GR1, l'anarco-insurrezionalismo è più pericoloso della Jihad. Né più né meno. Una dichiarazione è questa che ne presuppone naturalmente l'equiparazione, che non pure in verità è troppo scontata, tra la Scatasuna e i cosiddetti anarchici internazionalisti. Quindi è sempre colpa degli anarchici, ma più pericoloso della Jihad, metti d'accordo col giornale perché la cristiani uccisi dall'ISIS, ecco il reportage shock. Quindi non uccidi più l'ISIS o gli anarchici tradizionalisti? Non so, dobbiamo metterci d'accordo tra questa ex ISD e il giornale. Detto questo, passiamo invece alla cronaca locale. Si è visto che il figlio di Bulgarelli, di Giacomo, lui si chiama Stefano, ha aderito alla Fratelli d'Italia. E allora, e quindi a lista con capo governo proposta, capo governo della Borgonzone, insomma. Sì. Mio padre Giacomo era dell'MSI, a me nemmeno i biglietti per lo stadio. Ecco il motivo, ufficio reclami, avrebbe da dire con il nostro Massimo Vitali. Invece, ieri Comune invece ha concesso uno spazio incertoso per accendere il mitico capitano, forse anche per in qualche modo depotenziare questa polemichetta. Comunque, poverino, non ha nemmeno i biglietti gratis per lo stadio. Questo è il momento in cui, però, le indagini dicono che il vantaggio di sempre nei sondaggi di lo svantaggio della Borgonzone verso Bonaccini aumenta di 7 punti. Questo è quanto. Anche se c'è qualcuno dal giornale dice: non credete ai sondaggi. Questo è, lo troviamo, è Ricolfi, che così viene descritto: l'ultima lezione di Ricolfi, i sondaggi sono inaffidabili. Sai che novità. Il sociologo si congeda con i suoi studenti di Torino, il male d'Italia è l'eccesso di leggi e della produttività. Ricolfi è un grande. Continuiamo su questo tipo di notizia alle 10:23 minuti primi, siamo alle battute finali, le pagine locali della Repubblica riportano appunto un'analisi dell'Istituto Cattaneo e Marco Valbruzzi. Dice che quello delle elezioni regionali del 26 gennaio sarà un voto di valenza politica. Il governatore Bonaccini sta diventando un nuovo leader, ma deve restare umile, e la vittoria non è esattamente scontata, perché i punti di vantaggio e svantaggio fra i due candidati non sono così elevati. Tra governatore e suo sfidante infatti resta un testa a testa, anche se il trend di Bonaccini è da settimane in crescita. L'effetto sardine alimenta la partecipazione e fa crescere appunto il presidente. Comunque Salvini è favorito dal vento del paese. Di certo, anche secondo l'Istituto Cattaneo, la lista di Bonaccini parte da un 5% di vantaggio, ma può salire ancora. Addirittura, secondo Valbruzzi, assistiamo alla nascita di una nuova leadership, quella del governatore, che mette appunto il peso tutto sulla sua faccia. Un'altra delle notizie di cronaca riguardano ieri un gravissimo incendio scoppiato in via San Vitale, che ha visto il blocco del traffico, e è andata a fuoco una mansarda ed è morto un ex endocrinologo di 73 anni, molto luminare al Sant'Orsola. Ancora una notizia che riguarda i sindaci di Reggio Emilia, che si lamentano per i ritardi dei treni, l'incubo dei pendolari per le stazioni di Novellara, Guastalla, Bagnolo e tutta la bassa reggiana. Chiudiamo tornando a notizie di ieri, due notizie di ieri, una del suicidio della studentessa Roma, il quarto in 2 anni, e l'altra la denuncia dei carabinieri imputati nel caso Cucchi, che riaprono il tema del clima che si respira all'interno delle caserme italiane. Il tema della democrazia e della salute dei militari era al centro dei proletari in divisa, i vecchi PID, l'iniziativa di lotta continua. Ne abbiamo parlato con Sergio Sinigaglia, sentiamo le sue parole, con questo vi salutiamo, ciao, a risentirci. A risentirci. Chiaramente il vento della contestazione dopo il 68 degli studenti e il 69 dell'autunno caldo degli operai attraversò tutta la società italiana, e chiaramente arrivò anche nelle caserme, anche perché coloro che erano protagonisti di quelle lotte in fabbrica o nelle università o nelle scuole andarono poi a fare il servizio di leva, e quindi di conseguenza anche le caserme furono investite da mobilitazioni, da questo movimento che si chiama Proletari in Divisa, che era però emanazione dell'organizzazione Lotta Continua in cui io ho militato, ma in generale si creò un movimento dei soldati democratici che per diversi anni, soprattutto fino al 75, fu protagonista di diverse manifestazioni, scioperi dentro le caserme, in una struttura che va sottolineato ovviamente era una struttura parafascista, perché la Costituzione rimaneva fuori dalle caserme, i diritti rimanevano fuori dalle caserme. Le principali istanze che i proletari in divisa agitavano quali erano? Ma c'era un discorso questo appunto, allora teniamo conto, adesso proprio in questi giorni stiamo ricordando i 50 anni della strage di Stato, della strage di Piazza Fontana, chiaramente c'era un discorso di vigilanza democratica rispetto alle trame eversive che ovviamente coinvolgevano anche le gerarchie militari, quindi c'era un discorso appunto di sentinelle democratiche dentro la struttura militare per sventare i tentativi, le manovre golpiste o le manovre fascistoidi. Dall'altra c'era anche la mobilizzazione, c'era la denuncia anche rispetto alle condizioni materiali. Tu accennavi a questo episodio della soldatessa, va ricordato che uno degli slogan di allora del movimento era "di naia si muore", perché si moriva durante le esercitazioni per scarsa precauzione da parte delle gerarchie militari, si moriva di malattia perché chiaramente l'assistenza sanitaria, la salute dei soldati era molto poco curata, diciamo, e poi c'erano i suicidi perché ovviamente c'erano soldati giovani siciliani che venivano improvvisamente staccati dai loro affetti, mandati su una d'Aosta in Friuli, e chiaramente una volta arrivati in una struttura come quella della caserma, isolati, chiaramente avevano dei problemi di reazione emotiva ovviamente. Sono cambiate molte cose rispetto a quel contesto, perché adesso i militari sono un corpo professionalizzato, no? Beh sì, diciamo che il mondo è cambiato da molti punti di vista. Sicuramente oggi l'esercito, come sappiamo da anni, le forze militari da anni non sono più di leva, e quindi il contesto è cambiato completamente. Allora si era contrari all'esercito professionale perché chiaramente si aveva come riferimento situazioni come i colonnelli in Grecia, la dittatura di colonnelli in Grecia o il golpe in Cile dei militari, quindi si temeva giustamente che una professionalizzazione dell'esercito avrebbe comportato poi un ulteriore salto di qualità nel modello repressivo, ecco, diciamo così. E oggi chiaramente appunto il contesto è completamente diverso, però come citavi tu, è sul caso della soldatessa ma anche altri casi, purtroppo qual è il problema comunque? Che le strutture militari non sono democratiche, non sono democratizzate, quindi è un problema che ci portiamo avanti dalla storia d'Italia, diciamo, dalla storia repubblicana dopo guerra, insomma. Ecco. Permane un certo tipo di cultura e un certo tipo anche di formazione. Beh sì, tu hai citato i carabinieri, allora ricordo che il motto dei carabinieri è "usi obbedire tacendo", e quindi già questo dice molto, appunto caso Cucchi, e non possono dire "noi abbiamo obbedito agli ordini, venivano gli ordini all'alto", quando c'è un ordine palesemente che viola palesemente la Costituzione, viola i principi elementari di umanità, e tu non puoi obbedire. Quindi questo però, ripeto, è emblematico della filosofia che investe questi corpi militari, forze di polizia, e del resto stiamo appunto riflettendo a 50 anni della strage di Piazza Fontana, e sono venute fuori insomma anche recentemente dopo le inchieste del giudice Salvini le presenze inquietanti di continuità col regime fascista dentro le strutture di polizia e strutture militari dal secondo dopoguerra, insomma. In tutto il mondo è così o ci sono contesti in cui gli eserciti, le forze armate sono, come dire, seguono processi un po' più democratici? Nei paesi scandinavi probabilmente c'era almeno un tempo una maggiore tolleranza. Comunque diciamo che i corpi militari, eserciti, forze di polizia un po' tutto il mondo hanno un deficit di democrazia, perché poi, detto proprio in maniera molto schematica, sono la lunga mano del potere del sistema, e quindi chiaramente sono uno strumento repressivo, come poi stiamo vedendo in questi mesi nelle varie rivolte che ci sono in giro per il mondo.